Teologia mi ha indotto ad accettare l'invito piuttosto pressante di Monsignor Sartori, rivoltomi non molti giorni fa. Ma non voglio giustificare il carattere piuttosto frammentario della relazione, adducendo il poco tempo avuto a disposizione. Voglio invece ricordare i limiti che a mio parere sono intrinseci, sia soggettivi che oggettivi, che motivano, a mio parere, tale frammentarietà. Limiti soggettivi in primo luogo, non occupandomi direttamente di teologia fondamentale, ma di sociologia religiosa e di teologia pratica, non sono sicuro di aver accolto compiutamente l'invito di far parlare in prima persona la teologia fondamentale. Il rischio quindi di andare fuori tema è quanto mai presente. Limiti poi oggettivi. Fra teologia e sociologia regna uno stato di belligeranza solo recentemente sopita, tanto da lasciare intravedere la possibilità di un rapporto più pacifico. Progresso questo importante, indubbiamente, ma recente e quindi ancora insufficiente per pretendere di incanalare tali rapporti in vie maggiormente sistematiche. Riconoscendo, anzi accogliendo, la precarietà del rapporto tra teologia e sociologia, il mio intento aspira a collegare alcune problematiche dell'attuale riflessione teologico fondamentale con i più recenti tentativi della teoria sociologica, oltrepassando in qualche modo le impostazioni tradizionali della sociologia religiosa. E in particolare vorrei soffermarmi su alcune sfide che in qualche modo provengono alla teologia fondamentale proprio nel suo rapportarsi, prima di tutto, con la sociologia della conoscenza, poi con le scienze umane della nuova teoria critica e infine con la sociologia della religione. Prima però di procedere a questo confronto, credo sia necessario premettere un breve panorama storico del rapporto teologia-sociologia per ricavare da questo panorama storico alcuni suggerimenti per un corretto rapporto tra queste due scienze. Allora, la prima parte. Un breve panorama storico del rapporto teologia-sociologia. Schematicamente caratterizzerei in tre tappe tale rapporto. La prima tappa si caratterizza per la reciproca polemica, dovuta a una sorta di concorrenza radicale tra sociologia e teologia. La seconda tappa si caratterizza invece per una sorta di coesistenza più o meno pacifica. La terza, infine, e la più recente, si basa sul confronto vero e proprio tra queste due scienze che, più umili, ritrovano faticosamente il cammino del dialogo e anche, direi, della mutua integrazione. Il punto di partenza è dunque polemico, causa la pretesa concorrenzialità. La sociologia, fin dal suo sorgere, si aggiudica competenze che invadono l'ambito preteso tradizionalmente dalla teologia. Lasciando da parte la posizione estrema di Comte, posizione peraltro tardiva, dovuta anche a motivi non inerenti alla riflessione sociologica, ma a un fallito amore, quando vagheggiava un trionfo dei sociologi come la casta sacerdotale della nuova era positiva, quindi lasciando da parte questo, è caratteristico della sociologia, in particolare della sociologia francese, l'aspirazione di liberare l'uomo moderno dalla tutela della teologia e della Chiesa con la costruzione di una morale scientifica, la sola adatta alla società moderna. Questa duplice aspirazione alla scientificità e alla emancipazione caratterizza la sociologia conferendole quel marchio di ambiguità che che difficilmente può scrollarsi di dosso, proprio perché osservatore e oggetto osservato alla fin fine coincidono. Per questo, nel momento in cui la sociologia si pone come scienza, inevitabilmente si pone anche come coscienza. Difficile separare in essa l'impresa conoscitiva dalla tecnica operativa. Difficile ancora per essa presentarsi come osservatrice distaccata, senza affermarsi anche come socialmente impegnata. Nell'intento di riordinare e ricostruire la società dopo i traumi della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale, Comte chiede alla nuova scienza di fornire quegli elementi per una fondazione teoretica su cui attuare l'inverarsi storico del consenso sociale, senza il quale ogni ricostruzione è inattuabile. Quindi non una scienza tra le altre, che si esaurisce in un puro fatto conoscitivo, in una impresa puramente intellettuale, ma lo strumento per la riduzione e il dominio della diffusa anarchia scientifica dell'epoca, determinata, sempre secondo Comte, dai residui intellettuali di ordine metafisico ed ideologico. E la teologia rientra appunto tra questi residui e deve quindi essere superata. D'altronde la teologia dell'epoca, siamo grosso modo nella seconda metà del secolo scorso, prestava il fianco alle critiche della giovane scienza, in quanto continuava a presentarsi come una disciplina a competenze universali, a livello di totalità e di dettaglio, nelle grandi come nelle piccole dimensioni. Continuava a considerarsi come un sistema scientifico indipendente dalla contingenza dei mutamenti storici e delle varie costellazioni socioculturali. Un sistema scientifico quasi soprastorico, quasi sopraterreno, proprio per il suo riferirsi a delle verità dogmatiche, come se lo stare completamente nella rivelazione non significasse comprendere e stare anche nel tempo. La seconda tappa si caratterizza per una coesistenza più o meno pacifica. A partire dall'inizio del secolo, nell'ambito della esegesi, prima della teologia evangelica e poi gradatamente anche da parte della teologia cattolica, si è imposto un modo di giudicare i testi biblici che implicitamente adottava i metodi della sociologia del sapere. Si riconosce che proprio per l'intelligenza dei testi, la chiarificazione del fondo culturale è quanto mai indispensabile. Così pure nella storia della Chiesa si riconosce sempre più l'esistenza di legami, di connessioni tra la vita ecclesiale e le condizioni sociali a essa contemporanee. Dopo gli anni 30, e in misura crescente a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, si attuano, infine, tentativi di recezione da parte della riflessione teologica di categorie sociologiche che vengono spesso riempite di significati teologici, senza però riflettere molto sulla funzione euristica di tali categorie nella cornice del pensiero sociologico. Una recezione dunque piuttosto eclettica, poco riflessa, che riguarda particolarmente l'etica sociale, la teologia pratica e più larvatamente anche l'apologetica. Una recezione attuata a livello pratico, senza tematizzazione a livello teoretico, che comunque rimane senza conseguenze per quanto concerne le sfere centrali del sapere teologico. D'altra parte, questa recezione è resa possibile dall'avvento progressivo della cosiddetta sociologia empirica. Questa sociologia empirica, staccatasi in qualche modo dalla sociologia classica, che per certi versi si avvicinava alla filosofia e alla storia nel suo intento di analisi e di comprensione sistematica della società, della cultura, della religione, questa sociologia empirica, dicevo, non sente più il bisogno di basarsi sulla comprensione teoretica della società, crede di liberare le sue osservazioni da qualsiasi comprensione particolare dello sviluppo sociale e da qualsiasi gruppo di valori, sperando così di ottenere risultati scientifici ancorati più saldamente alla realtà. È quella che viene chiamata sociologia del rispecchiamento, che accontentandosi di studi di dettaglio, meglio rispondenti alle esigenze della quantificazione, non fa altro che quantificare singoli fatti atomizzati senza alcun intento di comprenderli nel loro significato globale, nella loro portata all'interno appunto di una teoria sociologica. Proprio questa sociologia avvalutativa permette alla teologia il recupero pacifico della sua tradizionale interpretazione valutativa. Tale sociologia si presta così ad una ripresa di quel modello ancillare a cui la teologia era tradizionalmente abituata nel suo rapportarsi con la filosofia. La terza tappa, quella nella quale ci troviamo, si caratterizza per l'esigenza del confronto e del dialogo. Comporta quindi una diversa attenzione da parte della teologia nei confronti della scienza sociologica e impone in qualche modo una revisione del fare teologia che si ripercuote maggiormente proprio a livello di teologia fondamentale. Credo che alla base di questa terza tappa vi sia la presa di coscienza del fenomeno che caratterizza la società attuale, e cioè il fenomeno della secolarizzazione. La caratterizzazione di questo processo che l'Europa ha subito fin dalla fine del Medioevo è quanto mai problematica, lo sappiamo tutti. Comunque la teologia si rende conto che non può più prescindere nella sua riflessione dalla attuale differenziazione strutturale e funzionale della società e anche dalla concomitante emancipazione della soggettività. La riflessione teologica deve oggi confrontarsi con la prospettiva di un pluralismo delle concezioni del mondo, con la autonomizzazione dei riferimenti religiosi entro il contesto globale della vita. In questi processi è in gioco non solo la teologia, ma direi il fatto cristiano, il cristianesimo stesso, proprio a causa di quella difficile socializzazione religiosa in un contesto che si presenta pluralistico, differenziato e sovente anche de-ecclesializzato. In particolare, la teologia fondamentale, in quanto sapere critico della fede di fronte alle esigenze dell'humus storico dello spirito, si rende conto che non è possibile svolgere la propria funzione a un livello di credibilità puramente razionale, puramente dimostrativa del fatto della rivelazione cristiana. Se si tratta di interpretare il contesto dei significati religiosi odierni, la teologia fondamentale non può più servirsi di reperti sociologici sfruttabili per ragionamenti propri. La sua funzione, che si evidenzia sempre più in un contesto secolarizzato pluralistico, è di riflettere sulle condizioni presenti dell'homo religiosus, quindi sul cosmo di interpretazioni dei rapporti tra Dio, uomo, mondo, quindi sulle condizioni presenti della Chiesa e sugli effetti anche manifesti e latenti della sua attività normativa. Essa, per essere oggi scienza fidei, studio metodico e sistematico dei fondamenti della fede, deve oggi più che mai riconoscere che la fede è certo dono di Dio, ma è pure contemporaneamente un atto umano, anzi l'atto umano fondamentale che imprime un orientamento di fondo a tutta l'esistenza umana. Inevitabilmente la teologia fondamentale è oggi una disciplina alla ricerca della sua identità, perché per essere fedele al compito di rendere ragione della fede in questo contesto socioculturale, deve riprendere come oggetto della propria riflessione il problema della natura della fede, della sua ragionevolezza e soprattutto della sua capacità di interpellare ancora gli uomini, anche quelli del nostro tempo. Il problema della natura della rivelazione, della sua credibilità, della sua interpretazione, ridiventa particolarmente acuto in questo contesto socioculturale che ha attuato la cosiddetta svolta antropologica, veramente universale e radicale, e che agisce con un tasso di accelerazione crescente proprio con l'avvicinarsi ai nostri giorni, provocando quel processo di destrutturazione, ristrutturazione, che abitualmente definiamo appunto con il termine di secolarizzazione. Di qui l'esigenza per la teologia fondamentale di confrontarsi con la sociologia a cui si attribuisce l'analisi dei fatti sociali. Confronto difficile perché ci si rende conto che difficilmente la sociologia può essere oggi concepita come una scienza unificata ed unitaria, operante sulla base di principi logici chiaramente definiti. Al di là, infatti, del sempre ricorrente problema sulla natura delle scienze sociali, una oscillazione tra una concezione neutrale oggettiva ed una concezione invece critico impegnata, al di là ancora delle diverse impostazioni metodologiche, sempre più chiaramente emerge la diversificazione e la differenziazione dei campi di interesse della sociologia. Se sempre in questi diversi campi si tratta di studio della società, i diversi punti di vista con cui la società viene osservata ed analizzata tendono a costituirsi, direi, per forzatura specialistica in sociologie speciali che si richiamano certo ai paradigmi della sociologia generale, ma in quanto applicazione alle diverse sfere della vita sociale tendono ad assumere forme e linguaggi che variano grandemente da un indirizzo all'altro, provocando anche controversie e conflitti. Così l'unità della sociologia come scienza sociale diventa sempre più problematica e di certo questa dispersione del sapere sociologico non agevola il confronto e il dialogo con la teologia. Questo rapido e schematico excursus storico del rapporto teologia-sociologia consente comunque di suggerire alcune conclusioni che, anche se formulate negativamente, sono a mio parere basilari per un corretto prosieguo del confronto sociologia-teologia. In primo luogo, occorre abbandonare un pregiudizio diffuso che la sociologia e in certo qual modo direi anche la teologia fondamentale siano scienze unificate che operano secondo principi definiti e che perciò sia possibile studiare le loro mutue relazioni in modo astratto, paragonando cioè i loro rispettivi principi formali. Da parte della teologia fondamentale occorrerà tenere presenti in particolare i vari campi di interesse della sociologia, ognuno dei quali può avere speciale importanza per la riflessione teologica. Quindi il teologo che si occupa di sociologia dovrà sapere con che specie di sociologia ha a che fare. Secondo, occorre abbandonare ogni sincresi precipitose da critica. È vero che la teologia, e credo in particolare la teologia fondamentale, sente il bisogno di recuperare il tempo perso nel confronto con la sociocultura moderna proprio all'indomani di un protratto no pregiudiziale e rigido nei confronti della sociocultura moderna. Pensiamo alla restaurazione neoscolastica e ciò che esso ha comportato fino alla Seconda Guerra Mondiale. Tale urgenza, dettata da pressioni e da stimolazioni pratiche pastorali, deve certamente essere accolta, ma deve anche essere valutata consapevolmente e criticamente, pena lo scadimento del sapere della fede nella relatività storico-situazionale. Il teologo non potrà dimenticare, in questo dialogo, che teologia e sociologia fanno un discorso loro proprio, quindi con intenzioni e con un linguaggio che sono diversi. In terzo luogo, occorre ricordare che le questioni epistemologiche e filosofiche anche, che il rapporto teologia-sociologia solleva e che comporta, a mio parere, un particolare e importante campo di riflessione, sono queste questioni epistemologiche e filosofiche problematiche e, a mio parere, soprattutto aperte. Per questo, al di là dell'interesse intrinseco della riflessione epistemologica, è necessario, a mio parere, limitare tale riflessione, pena il perdere di vista l'oggetto proprio del confronto e della collaborazione tra teologia e sociologia. Tenendo presente queste conclusioni suggerite dall'excursus storico, la sociologia non è una scienza unificata, in parte non lo è neppure la teologia fondamentale, le sincresi precipitose non favoriscono un dialogo serio, le questioni epistemologiche sono questioni dibattute e aperte e tali per ora debbono restare, possiamo passare a suggerire alcune piste di incontro-provocazione tra teologia e sociologia. La prima, che chiamo sfida, mi pare provenga da un importante ambito della sociologia che va sotto il nome di sociologia della conoscenza. Questa sociologia della conoscenza, che credo abbia ormai superato oggi lo stadio della pura critica ideologica, si prefigge come compito fondamentale di individuare le connessioni esistenti tra la struttura, la costituzione, le condizioni sociali, la situazione storica di un soggetto individuale o collettivo e quegli elementi culturali a predominante carattere e contenuto cognitivo. La sociologia della conoscenza, dunque, occupandosi del fondamento sociale delle idee, è interessata al modo in cui varie classi di fattori sociali fanno sì che dalla distesa infinita in senso intensivo ed estensivo dei fenomeni che sono suscettibili di rientrare nell'esperienza umana, solo alcuni e non altri emergano e siano anzi presi come oggetto di conoscenza. Nell'acquisizione essenziale per la sociologia della conoscenza che un significato umanamente comprensibile e sempre legato ai presupposti dello sfondo culturale, la sociologia della conoscenza mira a individuare gli interessi, materiali o meno, e i valori che precedono ed operano tale selezione. Questo campo specifico della sociologia è di grande importanza per la comprensione dello sviluppo dottrinale della teologia fondamentale. Mi pare che qui emerga un duplice problema ermeneutico, appunto implicato nella sfida della sociologia della conoscenza, che rende acuto il problema dell'autocomprensione della teologia, sia per quanto riguarda il suo passato, sia per quanto riguarda il suo presente. Per quanto riguarda il passato, nessun teologo, penso, troverà fuori posto applicare alle problematiche teologiche del passato quella compositio loci che la sociologia della conoscenza ha sviluppato in termini di riflessione sul condizionamento molteplice posto dall'ambiente sociale in cui è nata e cresciuta una determinata problematica teologica. Ambiente che può condizionare la gamma degli sviluppi e anche direi delle divergenze di pensiero, più che non, forse, una presunta logica deduttiva rispetto a principi univoci. Le variazioni delle dottrine teologiche possono certo essere sviluppi di idee, ma occorre anche considerare la realtà socioculturale che genera o condiziona o favorisce questo o quello sviluppo. Il problema quindi della verità, che è un problema irrinunciabile per la teologia, dovrà essere affrontato e risolto sì all'interno dell'esperienza della fede, ma non senza un confronto anche con la sociocultura che è dinamica ed è mutevole. Per quanto riguarda invece il presente, è ovvio che la teologia deve puntare sulla verità e della verità non possa dare un significato provvisorio. Ma la sociologia della conoscenza, nell'acquisizione importante che un significato comprensibile è sempre legato ai presupposti dello sfondo culturale, ricorda alla teologia fondamentale che la verità non può essere tramandata di generazione in generazione con combinazioni fisse di parole. La fedeltà a un linguaggio irrigidito rischia di rendere precaria quella funzione della costituzione sociale di significati che è un compito centrale della teologia fondamentale. Da questa prospettiva, la teologia fondamentale non avrà solo come suo compito di elaborare la molteplicità di quanto è tramandato facendone una sintesi intelligente e aggiornata, ma dovrà anche riproporre l'interrogativo circa le connessioni tra i contenuti dottrinali, le loro esperienze simboliche nel linguaggio e l'attuale esperienza storico-concreta. Il problema della verità di un enunciato teologico diventa allora anche il problema della sua validità, del suo senso per l'uomo di oggi. Il ripensamento della teologia fondamentale mi pare che sia allora, da questo punto di vista, veramente radicale. Non si può trascurare che la rivelazione divina pervenutaci in forma di parole, Dio ha parlato agli uomini, non può considerarsi, come nell'apologetica classica, come un concetto a prioristico e formale. La rivelazione è parola evento ed in essa è applicata tutta la realtà, è implicata tutta la realtà sottesa all'Antico e al Nuovo Testamento, secondo la quale Dio si rivela nella storia della salvezza e in Gesù Cristo. Per questo all'ermeneutica della tradizione, che è sempre necessaria per far teologia, diventa oggi particolarmente necessaria un'ermeneutica dell'esperienza odierna dell'uomo di oggi. Ciò che nell'interpretazione ecclesiastica della fede viene dato e attestato a proposito di Gesù di Nazareth deve essere anche riferito alle esperienze quotidiane odierne se si vuole tentare un discorso che abbia un senso intelligibile per il contesto odierno, che è di fatto la condizione per potervisi inserire mediante e nella fede. Questa attenzione ermeneutica all'esperienza odierna deve precisarsi, a mio parere, su un versante significativo della sociocultura contemporanea, quella che potrebbe essere chiamata la sfida umanista alla teologia. Se è vero che il problema del senso di un enunciato teologico non può prescindere dal riferimento all'esperienza degli uomini di oggi, non si può dimenticare che oggi tale esperienza è tematizzata attraverso concetti desunti dalla sfera della vita sociale e politica e quindi dalla vita intessuta di relazioni umane. Di conseguenza, la teologia fondamentale deve considerare il rapporto fra valori umani e valori cristiani. Riprendendo l'antica questione del rapporto fra l'umano e il soprannaturale, in una prospettiva però diversa e presumibilmente più corretta, in quanto lontana dal concetto astratto di natura e di uomo, e più aderente invece alla storia che coglie la singolarità di Cristo, come sentivamo stamattina, che caratterizza Gesù di Nazareth di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Si tratta allora di riscoprire e di riproporre l'originalità del cristianesimo, e cioè il senso del riferirsi a Gesù Cristo considerato nella sua singolarità, che si definisce precisamente nel rapporto Gesù Cristo-uomini, e conseguentemente il senso della fede e della sua credibilità e significatività proprio di fronte all'uomo di oggi, che si ritiene ormai giunto a maturità, che considera di fondamentale importanza la vita politico-sociale e che ha assunto e integrato numerosi valori che erano stati promossi nella nostra cultura proprio da profeti e da santi e che ora l'uomo moderno rilegge, riformula e vuole riviverli, ma in una versione secolarizzata. Questa mutazione culturale impone alla teologia un duplice impegno. Primo, a livello del senso della salvezza, sia nella continuità-discontinuità fra storia ed escatologia, ma una discontinuità che non è fuga dal mondo, né è un appellarsi ad altra mondanità, sia nel nesso, oggi particolarmente importante, tra escatologia individuale ed escatologia storico-sociale, ma escatologia non solo nascosta o annunciata o promessa, ma realizzantisi anche visibilmente, seppur in modo frammentario, nel tessuto fondamentale della storia umana, nel cuore cioè degli uomini, ma anche nelle strutture sociali. Secondo, a livello del senso della vocazione chiamata dell'uomo a diventare figlio, ma figlio maggiorenne, del padre. È il tema dell'uomo a immagine di Dio che ha bisogno di essere approfondito per dare senso a tutta l'esistenza umana sotto tutti gli aspetti. Costituisce infatti un tratto essenziale della visione e della speranza cristiana, capace di diventare in ogni creatura una forza ed una promessa dinamica. La seconda sfida è quella che ho chiamato antimetafisica, tipica soprattutto della nuova teoria critica, ma in qualche modo potremmo chiamarla anche antiumana, nel senso della prospettiva indicata da Althusser. La sfida qui è molto diversa, prima di tutto perché è legata agli ambienti accademici, ma la cui atmosfera intellettuale, direi che si sta anche espandendo oltre i ristretti confini accademici. Si tratta delle scienze umane, tra virgolette, così come sono concepite appunto nella nuova teoria critica, ieri si accennava appunto alla scuola di Francoforte, ma qui mi riferisco soprattutto ad Habermas e al cosiddetto neopositivismo legato sempre alle scienze sociali, in qualche modo lo strutturalismo, ma in particolare l'antiumanesimo di Althusser. Sono filoni culturali che occorrerebbe distinguere perché si presentano diversamente, ma che possono essere, in questa relazione sintetica, possono essere accomunati nel loro intento di superare il pensiero filosofico, mettendolo scientificamente in questione, secondo la nuova via resa appunto possibile dalle scienze umane. Il termine scientifico a cui si richiamano significa appunto basato sulle scienze umane, cioè sullo studio dei differenti processi di produzione della realtà sociale nel suo insieme. Si rifiuta, in queste scienze sociali, ogni tentativo di porre questioni al di fuori delle questioni scientifiche, tra virgolette, secondo una razionalità propria che è antimetafisica nella teoria critica e appunto antiumana nel neopositivismo di Althusser. Per la teologia fondamentale si apre, credo, un nuovo capitolo, in quanto il problema non verte più su Dio, come ad esempio nell'esistenzialismo ateo, ma concerne ormai la stessa persona umana. Non è sufficiente mostrare che la fede in Dio e la fede nell'uomo non si oppongono, né che la fede in Dio favorisce un umanesimo più autentico, Redemptor Hominis. La sfida qui mi pare che sia molto più radicale. La teologia, ma alla fin fine il cristianesimo stesso, sono ricondotti a pura ideologia, perché il primato della prassi, che è sotteso queste teorie, risolve consapevolmente ogni sapere che non sia saper fare in un presunto sapere, appunto, ideologico. È possibile per la teologia fondamentale accogliere questa sfida? Credo di sì. Anche se il dialogo risulta difficile, mi pare che sia però necessario. La difficoltà è evidente, poiché la teologia si trova spiazzata e deve giustificare la sua validità valutativa di fronte a teorie che non posseggono, anzi vogliono rifiutare ogni progetto positivo riguardante l'uomo e la società, perché ciò che vale è non la attualizzazione di un ideale, ma la realtà fattualmente data da analizzarsi in profondità per rivolgerle poi una contraddizione critica. Ieri sentivamo appunto parlare della dialettica negativa. Dialogo difficile, ma dialogo necessario, perché la teologia non può rassegnarsi ad essere ridotta a ideologia. La rivelazione è più che un punto di vista determinato sulla realtà, è appello eterno a un più e a un non ancora. Ma credo che non sia sufficiente invocare questo appello eterno. La teologia fondamentale, nel dialogo, dovrà, con argomentazione teologica, assumere il primato della prassi e verificare in concreto se tale assunzione non sia proprio cristianamente irrecepibile, in quanto l'uomo è l'essere che si fa, ho detto altrimenti, che il bene dell'uomo appartiene ultimamente all'ordine degli operabilia. Inoltre, la teologia fondamentale dovrà verificare se nella sua ricerca storica e nella sua riflessione attualizzatrice non trascuri troppo facilmente di essere autocoscienza critica di una prassi storica in nome di una malcelata concezione idealista della storia. In altri termini, la teologia fondamentale, se non vuole degenerare in scienza esoterica che non interpella più gli uomini del nostro tempo, non può prescindere dal fatto che l'ortoprassi è essa stessa un elemento essenziale nel processo ermeneutico. Questo dialogo della teologia fondamentale con una nuova teoria critica può nel contempo favorire anche un ripensamento critico della stessa teoria critica. Se giustamente il circolo ermeneutico della teologia dovrà essere giustificato di fronte alla teoria critica, nel senso che non si può prescindere dall'accusa di astrazione metodica dai fattori contingenti presenti nel contesto della tradizione che la teologia a volte sembra ipostatizzare, è pure necessario però che la teoria critica giustifichi il suo implicito circolo ermeneutico. Anche se i teorici critici ricusano di formalizzare la loro teoria, il cui contenuto sarebbe solo il risultato di una determinata costellazione storico-concreta, è a mio parere lecito, e ritengo doveroso anche, chiedere se l'impegnarsi a fondo in favore dell'emancipazione liberatrice possa solamente sgorgare, come pretenderebbero, dalle odierne strutture repressive scientificamente studiate, oppure se non supponga anche una scelta, una decisione umana. La teologia deve costringere i critici sociali a interrogarsi se la loro teoria poggia esclusivamente sull'analisi scientifica, come appunto vogliono pretendere, oppure se non poggi almeno implicitamente su una opzione etica in favore della libertà e dell'emancipazione dell'uomo. Se si tratta, come presumibile, di una scelta etica, allora la teoria critica presuppone una interpretazione del nostro essere uomo e pone implicitamente un progetto umano, un orizzonte positivo di senso. Allora sarebbe necessario precisare questi valori, almeno in negativo, proprio per evitare che essi si trasformino in feticcio, come giustamente teme la teoria critica. Infine, se mi concedete ancora 5 minuti, passo al rapporto tra teologia fondamentale e sociologia della religione. È ovvio che la teologia fondamentale non possa disinteressarsi della sociologia della religione. Il campo di ricerca della sociologia della religione è quanto mai vasto e può interessare il teologo fondamentale nella misura in cui egli desidera, deve, comprendere meglio il cristianesimo e la sua posizione nella società, quindi deve comprendere meglio la realtà sociale della religione, l'influenza anche dei simboli religiosi sull'organizzazione sociale. Le applicazioni della sociologia della religione alla teologia fondamentale sono ovviamente molteplici, ma anche in questo ambito occorrerà ricordare la varietà di indirizzi, di metodi, di interessi presenti in ciò che così sbrigativamente chiamiamo sociologia della religione. Vorrei accennare a una sola esigenza della teologia fondamentale, quella di ricercare nella sfera dell'esistenza umana quegli indizi di una realtà che trascende i fenomeni desunti dall'esperienza ordinaria, e cioè una teologia fondamentale che considera seriamente la storicità dell'uomo, senza peraltro prescindere dalle diverse argomentazioni esegetiche, filosofiche, storiche. Una teologia, dicevo, che considera seriamente la storicità dell'uomo deve individuare nel contesto della situazione umana empiricamente accertata quelli che un sociologo della religione, Berger, austriaco, anche se lavora in America, ha chiamato i segni della trascendenza, ovvero sia quei segni di una trascendenza di piccolo cabotaggio che forse è l'unica navigazione possibile per molti uditori della parola di oggi. In particolare, dalle ricerche della sociologia della religione occorre teologicamente saper recuperare quel fondo di humanitas che, non so, nella giustizia, nella compassione per gli altri, nel coraggio di vivere per un mondo migliore, rappresenta la negazione della morte e del non essere e testimonia la fede e la speranza in una realtà, tra virgolette, trascendente, in quanto dà la forza per proseguire il cammino, presumibilmente verso Dio. L'esistenza umana può così essere illuminata dalla teologia fondamentale, affinché l'uomo sia in grado, cosa non facile oggi, di accettarsi così come è, nella sua tensione verso una infinitezza ideale che deve però continuamente fare i conti con la sua finitezza di fatto. Individuare attraverso la sociologia della religione, e qui mi riferisco soprattutto ai più recenti contributi in questo campo, che sono molte volte più antropologici che non sociologici, comunque valgono ugualmente, individuare le prefigurazioni della realtà trascendente che esorcizza dal sequestro del mondo empirico e riscatta dalla quotidianità dell'esperienza comune è fornire, a mio parere, la comprensione, la precomprensione della rivelazione e della salvezza cristiana. Assumere la storicità dell'uomo significa dunque dare rilevanza, e non, come sovente capita, quel disprezzo più o meno aristocratico, alle ricerche di sociologia religiosa, anche se sono lacunose e parziali, proprio perché non si ha rivelazione in senso pregnante se il dono di una parola inedita da parte di Dio non coincide anche con una rivelazione dell'uomo a se stesso. Ovviamente si dovrà evitare il conflitto tra due sistemi conoscitivi: l'ingenuità teologica di non poche affermazioni di sociologia della religione non comporta un automatico giudizio negativo, così come la superficialità sociologica di parecchie asserzioni teologiche sulla natura dell'uomo, sulla società, sulla religione, non deve, credo, urtare il sociologo della religione. La teologia fondamentale può imparare, attraverso la sociologia religiosa, ad essere più attenta alle situazioni dinamiche in cui la fede si esprime, situazioni che comportano processi di contaminazione e di degrado, e a volte anche di purificazione e di autenticità. L'enigma dell'homo religiosus, che a suo modo la sociologia della religione cerca di interpretare e a cui cerca di dare una risposta, è l'enigma dell'ambiguità umana. Solo in questa prospettiva, credo, la teologia fondamentale può interpretare il significato oggi molto importante dei simboli e delle forme della religiosità popolare ed anche della religiosità extra-ecclesiale. Insomma, il contatto dialogico e diretto con la sociologia della religione può permettere alla teologia fondamentale di comprendere meglio il complesso mondo odierno, rendendosi in tal modo più comprensibile adesso. E vengo a qualche conclusione molto rapida. La teologia fondamentale è una scienza di frontiera e quindi, come tale, legata alle vicissitudini del tempo e alle sensibilità culturali di un'epoca. Essa, come autointerpretazione dialogico-critica della fede nella sua necessaria relazione al mondo, ha il compito di formulare il messaggio cristiano, precisandolo nella sua credibilità di fronte alle esigenze dello spirito umano. Deve attenersi alla propria origine e deve riguardare il presente, discutendo i contenuti delle culture contemporanee. Questa funzione di rendere credibile la continuità e l'attualità della sua dottrina nell'annuncio di una fede incondizionata eppure motivata è oggi più che mai importante per ragioni socioculturali evidenti, quale ad esempio la rinuncia o l'impossibilità di ricorrere ai meccanismi politico-sociali per controllare la societas fidelium, e anche un problema complesso questo, il dissolvimento, almeno parziale, della subcultura cattolica nel mondo pluralistico differenziato e mobile quale il nostro. Tutto questo comporta un'attenzione particolare agli uomini di oggi che chiedono che i loro problemi siano accolti seriamente. Il dialogo con la sociologia può aiutare, allora la teologia fondamentale, a ritrovare appunto gli appelli, le risonanze, i punti di aggancio fra il messaggio di fede e l'esperienza e i progetti umani. Dialogo laborioso perché teologia e sociologia obbediscono a gravitazioni diverse. La teologia fondamentale non può dimenticare la sua specifica gravitazione. Dovrà considerarsi come un sistema di conoscenze sui generis, il quale, conscio della propria specificità ed autonomia, si confronta con le scienze empiriche per conservarsi e irradiarsi come qualcosa fornito di senso. Ed anche la sociologia, e in particolare direi la sociologia della religione, potrà, dialogando appunto con la teologia, ricordarsi più spesso, come già Lévi-Strauss indicava per l'antropologia, che se si vuole comprendere totalmente un fatto sociale, come ad esempio il fatto religioso, bisogna apprenderlo totalmente attraverso la dialettica del di fuori e del di dentro. Quindi il ricorso alla teologia non sarà per la sociologia un impoverimento, ma credo una necessità metodologica. Teologia. Ho l'impressione che la teologia fondamentale oggi debba, più che rispondere a obiezioni, veramente prendere un po' più sul serio le accuse che vengono fatte alla Chiesa, meglio alla fede e alla teologia. Sostanzialmente sono accuse che devono essere prese più che con la tendenza, con l'attenzione, più che a difendersi, a vederne anche la giustificazione e quindi a scoprire un po' il senso del limite più che il valore, cioè se l'apologetica o la teologia fondamentale passata passava quasi al contrattacco per mettere in evidenza i valori, questa volta bisognerà anche fare un periodo lungo forse di lavoro per accettare di realizzare un certo senso del limite nella fede, contro ogni tentativo di assolutezza, quasi potrei dire così. Ieri sera con padre Kern abbiamo avvertito che la teologia deve iniziare discutendo certe pretese di assolutezza a livello di sistematicità esauriente, totalizzante. E con questa mattina già padre Latourel perlomeno una assolutezza ha preso in considerazione, l'ha ridiscussa, l'assolutezza del cristianesimo rispetto all'altra storia religiosa. Ha evidenziato prevalentemente il discorso delle religioni non cristiane, e anche tu l'hai preso. L'altra assolutezza che questa mattina è stata quasi ridiscussa con serietà come impegno della teologia nei suoi preliminari è quella di una oggettività quasi così di cose, una oggettività cosistica, non tenendo conto che l'antropologia e la storia che è fatta dall'uomo esige sempre anche un'attenzione al progetto, all'intenzionalità, a qualche cosa di molto più ricco, e con gli interventi poi che ha fatto il sociologo e farà, penso, Don Groppo per la parte di psicologia, a tutto l'uomo. Non si può accedere a una oggettività come si può accedere alle oggettività delle cose. E quindi questa attenzione anche all'aspetto di precomprensione antropologica oltre che di fede. E così anche questo discorso dove la natura ideologica della teologia è stata presa maggiormente in considerazione. Questa pretesa di creare una teologia così astratta, astorica, disimpegnata e quindi eludendo il problema della prassi. Sono tutte esigenze, diremmo, che devono essere prese in considerazione prima di fare il discorso di teologia. Una specie di liberazione della teologia nelle sue premesse, perché diventi più autentica, più umile se si vuole, ma dove praticamente Il discorso è anche quello di un servizio all'uomo per offrirgli veramente un vero servizio, perché se offriamo un servizio di pretese assolutistiche, di assolutezza, non gli offriamo una vera breve. E quindi praticamente il problema della credibilità diventa prevalentemente il problema della accettabilità, o meglio della comprensibilità, anche ieri sera, comprensibilità, e della capibilità, ecco, della sintonia del pensiero cristiano. Rimarrà certamente il problema, lo richiamo, perché l'altra volta quando abbiamo fatto il progetto di questo convegno è nato anche questo problema. Rimane il problema di come integrare in questo discorso il discorso apologetico tradizionale, perché rimarrà sempre dopo l'udibilità, la comprensibilità, anche il problema della credibilità del discorso. E dopo rimarrà il problema anche concreto, come, dove strutturare questo discorso formale di contenuti. Ecco, mi sembra che la sua relazione, direi un po' violentemente concentrata, anche se nelle parole erano molto calme, molto umili, concentrata a denunciare una certa pretesa della teologia di passare sopra l'uomo e di non tener conto di tanti limiti che essa ha dentro di sé, deve fornire dentro di sé per diventare un prodotto specifico, un vantaggio specifico. Mi sembra che questo suo discorso abbia aiutato un po' meglio a vedere il panorama di questa giornata. Sono pure riflessioni ancora così occasionali che mi vengono. Allora abbiamo un tre quarti d'ora buoni, lo ringraziamo perché ha finito prima per fare una nostra discussione. Finiremo almeno 10 minuti prima dei tre quarti, e se qualcuno vuole interferire. Tu Valentini, poi tu Arcusso, e tu, va bene, Valentini, allora comincia. Il discorso è stato fatto, per me è veramente convincente. Ciò che mi lascia, diciamo così, nell'animo è un desiderio di riuscire a portare avanti una teologia fondamentale che tenga conto anche di queste esigenze. Come è possibile? Da una parte penso che il sociologo non penserà di riuscire a fare una sociologia che tenga conto fino in fondo delle esigenze della teologia. Ma d'altra parte il teologo, credo, potrà ritenere di non riuscire a tener conto di tutte le esigenze della sociologia. Trovo un limite concreto da parte del teologo a riuscire a fare, a tradurre in pratica quanto lei ha detto. Cosa ne pensa lei di un programma concreto per fare in modo che queste istanze, giuste a mio parere, meno globalmente, che lei ha proposto, siano recepite all'interno di un concreto discorso di teologia fondamentale che non applichi alla propria esigenza, non c'è nessun dubbio, ma nello stesso tempo tenga veramente conto di queste altre esigenze. Mi sembrano tanto importanti. La mia difficoltà dunque nel modo concreto di realizzare questo suo discorso, come quello filosofico, psicologico, eccetera, perché da solo non ce la facciamo, non ce la faccio almeno, è una questione di tutti. Si è preso sul serio, hai detto la prassi. Non si tratta di aggiungere alcuni elementi, non si tratta di applicare un metodo specifico, ma si tratta di fare in modo che quanto è rilevato all'interno del discorso sociologico veramente sia tenuto presente. È importante in un certo senso all'interno del discorso teologico e teologico fondamentale. Adesso ti domando una cosa, con gli altri due amici, siccome per la lingua dovevamo anche tener conto di certe loro difficoltà, abbiamo preferito il metodo di risposta immediata. Adesso domando te se invece preferisci o si può consentire questa volta di sentire due o tre interventi, anche perché eventualmente tra di loro gli stessi interventi dialoghino, non e direttamente solo con te, se vuole diventare un seminario anche un po'. Esatto. Soprattutto se tu preferisci anche questo, sì, io sarei contento. Tenendo presente anche il fatto che io non sono un teologo, ecco, fondamentale. Quindi non potrebbe forse subito risponderti. Allora facciamo così, sentiamo prima due, tre, anche ciascuno degli interventi, eventualmente intervenga sia sul detto, ma anche su cose che tra di noi discutiamo. Cioè l'interlocutore non sia soltanto il privilegiato relatore. Allora, Arduscio. Io non intervengo direttamente su questa relazione, che peraltro ho apprezzato, quanto piuttosto sul concetto di teologia fondamentale che qui viene costantemente presupposto. Mi sembra che sia concepito sostanzialmente come una ricerca abbastanza solitaria e individualistica di rendere conto a se stessi e agli altri della validità del cristianesimo, in sostanza. Cioè, manca tutta la mediazione della comunità cristiana, che innanzitutto deve essere in se stessa credibile e proporre un messaggio credibile, no? E credo che sia prima necessario provocare questo allargamento. Poi credo che la teologia fondamentale, almeno così come è recepita abbastanza diffusamente, comporti anche proprio il discorso sulla mediazione della relazione. Allora qui avrei visto molti sbocchi interessanti per il confronto tra sociologia e teologia fondamentale, specialmente per quanto concerne la sociologia della conoscenza e la teologia fondamentale. Facciamo un esempio: il magistero, no? Tutte i condizionamenti storici, culturali, eccetera. Credo che questo, appunto, secondo branche della teologia fondamentale, che si cura più della trasmissione nel corso dei secoli della verità rivelata, si presti a delle analisi molto interessanti per un sociologo e per un fondamentalista, un po' come fa Harsma per alcuni tentativi che ha fatto sul magistero, per esempio. Egger? La mia domanda è rivolta un po' alle relatori, un po' a tutti. La prima, come si spiega questa specie, non so, di messianismo della sociologia? In America, Don Sartori ha detto, il messianismo pare, poi anche la storia della cultura degli ultimi anni mostra che la sociologia era quella scienza che doveva cambiare il mondo e in parte, insomma, ha portato poi a scelte radicali. E così mi domando, questo movimento di pensiero, che cosa ha di messianico? Questa è la prima domanda. Poi la seconda, la sociologia non ci offre diversi modelli di lettura, so in campo biblico, no, modelli di lettura alla maniera di Weber, con il movimento di Gesù come movimento carismatico, Gerd Theissen e poi parecchi americani, anche lettura sociologica del Vangelo di Marco, poi ho visto anche su San Paolo dei lavori molto, per me molto belli, perché anche molto concreti, parlano di tutti questi rapporti sociali. E così vorrei chiedere ai cultori delle altre scienze se anche lì ci sono certi lavori che danno, sì, che applicano questi modelli alle scienze rispettive, non so, morale o così, ecclesiologia o così via. Questo anche per continuare un po' il discorso di parlare. Ricordiamoci che Trento è la capitale della sociologia rivoluzionaria. Come? Poi trapianta da Fabio. Io operante a Torino. Operante a Torino. C'è altro? Tu? Serafini, sì. Vorrei cercare di rispondere intanto all'amico Valentini. Dice, interdisciplinarietà, lavoriamo insieme. Secondo, cerchiamo di ascoltare gli uomini di oggi, tutti, i più lontani specialmente, quelli che non parlano il nostro gergo. Basta, così. Chi c'è? Ah, parla la Turella. Ah. Sì, io... Provocato. No, ma io trovo che una questione sottogiacente a tutto il nostro discorso e alla fondamentale di oggi è la nozione stessa di fondamentale, e perché rischia di essere diluita in terra senza frontiera, non senza di frontiera, senza una antologia sacra nella quale si introduce tutto e niente. Cioè, ciò che manca, mi sembra, è di meglio focalizzare il compito principale e distinguerlo dai compiti secondari. Cioè, manca di precisare quale è il nucleo assolutamente essenziale e poi distinguere gli altri compiti, cioè gerarchizzare insomma i compiti della fondamentale. E questo tocca anche il problema del professore, cioè lui pensa che è molto difficile introdurre queste cose, è vero, ma precisamente per due motivi. Il primo, che dobbiamo distinguere il centrale e il periferico, che non è fatto ancora. Secondo, dobbiamo distinguere che abbiamo tre cicli per discutere i problemi della fondamentale. Io penso che al primo ciclo il professore deve conoscere questi problemi, essere ispirato da queste dimensioni. Per esempio l'occasione della spiegazione dei dogmi, lì può, senza fare il discorso sociologico, dire come per esempio la Chiesa, da Vaticano I al Vaticano II, ha migliorato la formulazione della rivelazione della Chiesa, come ha corretto la presentazione del segno della Chiesa, come ha completato sull'attività umana là dove era niente. Lo fa, lui lo sa, ma non lo dice, lo esprime ancora. Invece al secondo ciclo, al terzo ciclo, penso che viene il momento di trattare questi problemi ex professo, per distinguere chiaramente i livelli di comprensione dello studente. E così penso che si può risolvere abbastanza bene la situazione di essere di fronte a un magma indecifrabile, distinguendo il nucleo e la periferia, distinguendo i livelli. Penso che questo può aiutare, ma la grossa questione che mi dà in testa è allora, la nozione stessa di fondamentale che è un gioco. Faccio una proposta, cioè facciamo il cioè, discorso. Io trovo che una proposta così troppo grossa per essere discussa in alcuni momenti. No. Forse in tavola rotonda o più ampia, forse pomeriggio, non so. Sì. Ma io penso che qui abbiamo un vero problema. Quando lei parla di livelli intende tre cicli? Cioè, un ciclo istituzionale, basilare, come c'è in tutte le scienze, c'è un livello basilare, poi c'è un livello di livello non ciclo. E dopo c'è un livello di ricerca. Ma non è il ciclo allora, è il livello questo? È livello. Perché io avevo capito in parte, perché i cicli... No, cicli va di per usare il linguaggio della sapienza cristiana. Ah, ma livelli reali sono istituzionali, specializzazioni, ricerca. Grazie. Forse il padre però stava proponendo una nozione di ideologia fondamentale. Sì, stava proponendo la sua. La proposta. Cos'è per lei la definizione di teologia fondamentale? Fondamentale volevo proporre. No, non l'ho detto perché io penso che questo dovrebbe essere un po' spiegato. Spiegato. Perché il problema è proprio come, in che rapporto sta con l'apologetica di una volta. Sì, rimane tra relazioni tra apologetica e dogmatica, perché c'è un battesimo che ha battezzato pudicamente la politica diventata fondamentale. Allora, qual è il centro? Che cosa la fondamentale deve trattare che nessun'altra disciplina lo fa? Adesso ho l'impressione talvolta che la fondamentale diventa una funzione di tutta la teologia e non è più un settore proprio tra gli altri settori, e questo sarebbe contro la sapienza cristiana, già, che distingue chiaramente il fondamentale, dogmatica, morale, eccetera. Quindi qui dobbiamo distinguere anche questo. allora c'è un buon numero di distinzioni per chiarire le cose, altrimenti è diluita, è tutto niente, è una funzione generale della filologia che dogmatica può fare anche l'aspetto sociologico, l'aspetto non so. Allora qual è il compito che fa e che gli altri non fanno? Voi diamo la parola ancora a Pino o vuoi rispondere? Pino, c'è Ruggeri, voleva. Sì, ma io mi vorrei inserire. Allora. Chiedo scusa. Allora poi è meglio che tu. Ma io volevo semplicemente dare qualche parziale risposta o tentativo di risposta a qualche domanda che riguarda di più la sociologia della religione, il rapporto con la teologia fondamentale, che non invece la questione inerente alla teologia fondamentale in quanto tale, che compete a chi la esercita, ex professo. Ma a me pare che sia importante prima di tutto rendersi conto di questo, che come la ratio filosofica non può essere esclusa dalla teologia, sarà una filosofia, come dire, popolare, del buon senso, del senso comune, così credo che non si possa, non è estranea alla teologia la ratio sociologica. Anche qui naturalmente smussando, no, le asperità che possono riscontrarsi in diverse proposte sociologiche più o meno rivoluzionarie, se sono a Trento, a Padova o altrove, ma si tratta di acquisire, no, un dato che è fondamentale, che le istanze, le ansie, le privazioni, i bisogni degli uomini fanno parte di un discorso, altrimenti questo discorso non è significativo. Questo a me pare che sia fondamentale. In secondo luogo mi pare che sia ugualmente fondamentale un altro fatto per la teologia. Bisogna evitare, a mio parere, che il teologo o la teologia pensi in nome altrui, pensi per altri in via esclusiva. Se la teologia non ha questa attenzione dialogica, diventa veramente onnipotente e quindi credo che per l'uomo maggiorenne, se questo poteva essere fatto nel passato, per l'uomo di oggi che si ritiene maggiorenne è assolutamente inconcepibile. Quindi questo aspetto dialogico mi pare che sia importante. E allora perché, ipotesi, la teologia fondamentale non diventa quasi un luogo privilegiato di questo dialogo, una sorte di rendezvous, no, dove si tenta di coniugare insieme gli aspetti che sono inerenti alla rivelazione, il messaggio della salvezza, ma nello stesso tempo anche si tiene presente, si tiene conto di tutto ciò che fa parte della realtà umana. Ecco, c'è ancora troppa dicotomia, a mio parere, tra ciò che è umano e ciò che è invece extraumano, che è di Dio. Quindi convergenza, quindi interdisciplinarietà. Come concretamente attuare questo, poi non lo so. Per quanto riguarda invece questa sorta di messianismo che sarebbe riscontrabile nella sociologia, in particolare quella dell'America del Nord, ma non so, io credo che ci siano almeno due motivazioni. La prima, la presa di coscienza da parte di queste persone che siamo in una realtà post-cristiana. E allora bisogna recuperare tutto ciò che è umano. Per questo non li chiamerei più sociologi, ma li chiamerei invece antropologi, con una filosofia del buon senso sottesa a questa antropologia. Secondo, tipico della situazione americana, dell'America del Nord, è il fatto di essere costantemente alla ricerca di quello che può essere il denominatore comune di tutte le varie espressioni religiose. Forse proprio la stessa esperienza democratica porta a questo, una specie di religione civile, come direbbe Bellà. E questa ricerca del denominatore comune porta ancora una volta a insistere su dati che sono facenti parte dell'essere uomo, quindi su dati antropologici. Ma non credo che da noi ci sia però questo questo messianismo, può darsi qualche tempo fa, può darsi presso alcuni teologi o pastori o pastoralisti, ma credo che oggi almeno i sociologi sono all'opposto, oggi c'è un po' di sfiducia. Esattamente. Poi c'era ancora una domanda inerente alla utilità, se vogliamo, della sociologia della conoscenza, no? Circa la prassi della Chiesa nel suo insieme, in particolare anche la prassi magisteriale. Qualche cosa è stato fatto, però il terreno è molto scivoloso. Greinacher, per esempio, ha tentato, no? Qualcosa sulle concezioni del mondo, no? Però credo che sia una via da percorrere, anche se difficile. Allora tu, Pino, riprendiamo di nuovo. Sì, io volevo inserirmi proprio sull'intervento di Arbusso del padre Latorello. Mi pare che sia importante per chiarire appunto qual è il compito della teologia fondamentale, qual è la stessa nozione, distinguere due grossi ambiti nel quale si esercita la teologia fondamentale. Esiste l'ambito didattico-disciplinare e credo che questo ambito impone esigenze proprie che credo il padre Latorello brevemente. Delle responsabilità teologica nella prassi della comunità, nella vita concreta della comunità. Nel primo ambito credo che ancora sia abbastanza valida la nozione di teologia, per esempio, da Rolf Schleiermacher. La teologia di fatto è il sapere necessario alla guida della comunità, dove l'accezione di guida non era soltanto magistero, ma chiunque ha una funzione attiva nella comunità. C'è qui un'ideologia, per esempio, di cui bisogna prendere atto, di cui bisogna caricarsi. E qui c'è veramente anche l'ideologia della differenza delle discipline, che sappiamo è un fatto molto storico, molto limitato, e che impone spesso proprio poi a ogni disciplina di dover giustificare se stessa, il che è un circolo vizioso, no? Si costituiscono le discipline empiricamente per contingenze storiche, ma poi questa divisione deve essere assolutizzata e si costruisce la teoria che distingue, giustifica la singola disciplina rispetto alle altre. Tuttavia bisogna prendere atto di questo stato di cose. Di fatto nelle nostre società, implici dalla Chiesa, esiste un'istituzione che è l'istituzione della comunicazione del sapere, necessaria per la vita della comunità, e allora qui intervengono, no, tutta una serie di problemi che bisogna affrontare coerentemente, per cui è anche giusto dividersi le materie, direi, mi pare, in questo ambito. Però c'è un altro ambito, proprio un altro milieu, credo, dove esiste una sociologia del sapere, adesso per prendere la terminologia delle scienze sociali, molto differente. Ed è laddove la teologia viene giocata non tanto per giustificare una disciplina e lo statuto di una disciplina, ma dove la teologia fondamentale viene usata proprio come effettiva funzione teoretica della responsabilità della fede nella società e nella storia. E mi pare che qui l'interesse che muove, nel senso forte, l'interesse che muove proprio l'uso di questa competenza nella vita della Chiesa sia abbastanza differente dal primo. Non è tanto un'autogiustificazione della singola disciplina, quanto è veramente una relativizzazione della disciplina alla prassi. Io ritengo che in questo secondo ambito, che è quello, perlomeno a me, non vorrei assolutamente negare la validità del primo, teniamoci bene la sua autorità, oltretutto io che esercito nel primo anche. Ma vorrei, però in questo secondo ambito che io perlomeno ritengo più congeniale, a me non dico più verità. Qui perché pongo l'interrogativo e non so dare risposta, forse non si può tanto ormai parlare di uno statuto della teologia fondamentale. Globalmente possiamo dire come genus di questa nozione, senza differenza specifica, essere la responsabilità critica della fede di fronte appunto alla cultura, alle situazioni emergenti, dove proprio la volontà di dialogo, di frontiere è preminente, questo è chiaro, no? Al fondo è abbastanza tradizionale questo concetto. Però proprio perché ormai l'altro è estremamente parcellizzato, è estremamente frantumato, come dire, ogni volta quando ci si mette davanti a lui necessariamente si deve assumere la frantumazione. Io ad esempio non ritengo che almeno in questo secondo ambito di esercizio della teologia fondamentale, cioè della responsabilità critica della fede, ad esempio valga una differenza come quella che ieri il padre Kern sembrava enunciare. C'è la filosofia al di sopra e poi ci sono le varie scienze che sono aiutate dalla filosofia proprio a correggere la propria ideologia. Di fatto in ogni scienza c'è una pretesa globale, c'è la propria fondazione, c'è la propria giustificazione, eccetera, e via dicendo. Come dire, ogni scienza ormai è un impasto di tutte queste cose, da un certo punto di vista. E allora il teologo che si trova così di fronte a questa coscienza sociale così parcellizzata, così frantumata, non deve pretendere lui di dare una teologia corona di tutte le scienze. Deve semplicemente, affrontando l'altro con i problemi concreti che si pone, che sono di tipo teoretico, culturale, che sono di tipo di comportamento religioso, di tipo etico, e qui le varie competenze, qui i vari carismi, deve semplicemente accettare questa frantumazione e tentare di ricostruire ogni volta, a partire dalla prassi della fede, no? Come un piccolo universo significativo, che in qualche modo necessariamente è autonomo. Un piccolo universo non significa un universo globale, un universo di risposte per tutti, ma un universo finalizzato a colui che gli sta davanti. Universo proprio con una, perché la teologia fondamentale senza volontà di dialogo credo che non esista. All'altro proprio di fronte a cui lui si metta, senza pretendere di poter dare questa ermeneutica nemmeno universale della fede. Per formare quest'uomo, per formare uno capace così, non ci vuole mica una metodologia. Ecco, allora rientriamo forse nel primo ambito. Bisogna riprendere allora i problemi enunciati dal padre Latuelli. Cioè, è chiaro che occorre una formazione, occorre la comunicazione del sapere che serve alla guida della comunità, guida, cioè alla responsabilità nella comunità. Ed occorre un problema allora disciplinare, occorre un problema. Ed è questo, è un primo ambito che richiede, come dire, un primo genere di risposta. Poi nell'esercizio, credo, valgono altre regole di gioco, altre regole del comportamento. Padre Latuelli? Sì, è possibile. Sì, com'è? Molto faticato su. Sì, sì. Detto, la risposta che ho dato non è la mia risposta completa. Cioè, io penso che per la fondamentale si può distinguere una funzione didattica di cui ho parlato, ma c'è di più, c'è una funzione, direi, ecclesiale, del corpo ecclesiale, ideologico. Per esempio, nella medicina c'è la scuola di medicina che prepara il medico, il sacerdote. Questa è la funzione didattica della medicina. Ma la scienza medica, come la scienza, direi, fondamentale, è la possessione di un corpus sociale, e è la possessione di questo corpus sociale, e a questo lavoro partecipano tutti, nessuno di noi, nessun centro universitario, nessuna università può pretendere possedere tutto questo corpus che fa parte veramente del campo della fondamentale, diventa una possessione del corpo ecclesiale. E il corpo dei teologi, specialmente di fondamentale. Quindi aggiungo a ciò che ho detto, distinguere la funzione didattica con i suoi diversi livelli che si fa nella scuola, e anche la dimensione ecclesiale, una funzione che la Chiesa non può mai trascurare, però non è fatta da una scuola, non è fatta da un teologo, neppure da 10, ma è il lavoro di tutto il corpo dei teologi, per esempio, fondamentali del mondo, della Chiesa, nei secoli. Allora, a questo momento, questi aspetti contrastanti si integrano, ciascuno al suo posto, ma in una funzione di ecclesia, una riflessione che la Chiesa deve fare come comunità ecclesiale. Dico che l'uno penso non è subitamente l'altro, bisogna soltanto forse situare il problema. Siamo altri interlocutori. Dire qualcosa a proposito di un accenno a cui ti sei riferito. A me pare che molte volte a livello di teologi, ma più in generale a livello clericale, si è enormemente preoccupati, spaventati dal fatto del pluralismo, no? Parlavi della frammentarietà dell'uomo, eccetera, eccetera. È vero, anch'io sono preoccupato, soprattutto dal punto di vista educativo, per la difficilissima socializzazione, ma ponendo escluso questo aspetto educativo socializzante, se in una situazione come la nostra ci sono voci diverse, disparate, che non riescono a formare un coro come vengono invece formate qui nel Trentino, pazienza, dico, però ogni singola voce è interessante e può darsi che arrivi poi il momento in cui riusciamo a fare. Per esempio, per quanto riguarda la precomprensione, no, che è tipica di ogni ricerca scientifica, è un dato inevitabile. L'importante è esserne prima di tutto coscienti. E in secondo luogo, questa precomprensione non pregiudica la possibilità di una certa obiettività. Noi abbiamo sempre l'esigenza di una obiettività che sia veramente obiettiva, totalmente totalizzante. L'importante è non lasciarsi catturare da un solo tipo di obiettività, considerandolo come unico. Ecco allora che ritengo molto importante la filosofia in questo dialogo, no? Se la filosofia è veramente tale, ecco, relativizza la mia pretesa assolutezza. Mi ricorda, ad esempio, se sono sociologo della religione, che il livello fenomenico, no, è diverso dal livello intenzionale, che è il mondo dei fini e il complesso delle finalità ultime, se vogliamo, dell'uomo. Ma non sarei spaventato assolutamente da questa situazione. Prendiamo l'esempio, quando c'è delle nuove teorie, prendiamo Popper. Popper sviluppa a livello epistemologico una sua precisa metafisica, cioè non la mutua da una filosofia preesistente, lui la sviluppa al proprio interno. Lo stesso dicasi di Althusser, che tu hai citato. Althusser sviluppa l'uomo la distinzione che lui fa dell'uomo, cioè dell'analisi che fa del capitale di Marx per individuare la costante dell'uomo economico, il rapporto che mette con la teoria, eccetera. Lui sviluppa una sua metafisica, la chiama o non la chiami tale, a me non interessa. Il problema è che lui non la vuole mutuare da altri. Cioè questo è importante. Però la mutua di fatto. Ma il teologo, quando si pone di fronte all'altro, no? Cioè deve prendere atto della globalità e della totalità di senso che lui afferma dentro il suo orizzonte parcellizzato, limitato, eccetera. E quindi non può, come dire, distinguere. Va bene, io mi confronto con te per quanto riguarda l'epistemologia, ma non per quanto riguarda la metafisica. La metafisica deve essere diversa. Ora, ecco perché io parlavo di quella totalità di significato che oggi si vive nella parcellizzazione, nella frantumazione del sapere. In altri termini, mi metto davanti ad Althusser, criticamente, chiaro, mi metto davanti ad Althusser accettando la globalità di fondazioni, di autofondazioni anche metafisiche che lui di fatto implicitamente usa. E non le mutuo da una teoria generale, astratta e diversa dal suo sapere. Questo è importante. Ma anche dall'interno. Ho capito, Ruggeri sostiene che quasi ogni non esiste o soltanto uno, due, tre sistemi, ma ogni uomo ha la... Ma non esiste più un universo del sapere medievale. Ogni uomo porta avanti in fondo un universo, mi sembra. Don padre Don Grof, forse, è l'ultima battuta. Una cosa che ho osservato con Ruggeri, la trovo molto interessante, però trovo un altro problema dietro a questo. Nel campo della psicologia questo sta avvenendo in un modo impressionante. Non c'è una teoria di tipo analitico, di qualunque tipo, non c'è una psicologia che non sia in qualche modo uso il termine, una tuttologia. Hanno detto tanta. E di fatto, anche quando uno accetta, per esempio, una, di fare una terapia gestaltistica, al di dentro della terapia gestaltistica c'è precisamente questo. Però io, teologo, posso accettare, prima ancora che teologo, io, uomo, posso accettare questo oppure, senza voler di nuovo arrivare a un enciclopedismo medievale, posso trovare delle altre soluzioni? Questo per me è un problema critico molto grosso, che io oggi dovrò anche affrontare proprio per la teologia. Mi sembra un punto in cui il teologo, cosiddetto fondamentale, deve affrontare. Però non abbiamo molti strumenti in mano e dobbiamo costruirli. Io lo dico come uno che non è teologo fondamentale, che insomma, si occupa di altre questioni marginali rispetto a questo. Comunque è un problema che io sento fortissimo, perché tutte le volte che discuto con qualcuno mi importa. Io lo sento come un problema ecumenico quando lo trasporto anche a livello secolare. Cioè, il vero ecumenismo è il nuovo modo di realizzare l'unità, perché c'è bisogno di unità, dentro il fatto di tanti universi culturali. Ora, una volta l'unità veniva ottenuta con un sistema, lui ha accennato a una tendenza che c'è nell'ambito ecumenico di ottenere l'unità, ecco, gli americani, andando sotto al minimo comune denominatore, togliendo, per così, decapitando le originalità. Per me invece il vero problema ecumenico è quello di ottenere una unità non attraverso la decapitazione nel minimo, ma attraverso la comunicazione del massimo. Ora è un problema, quello tuo è veramente il problema che oggi si avverte a tutti i livelli. Io lo formulerei poi. Sì. Il problema della ricerca dei modelli di dialogo. Sì, quali sono i modelli di dialogo? Qual è il problema dei modelli di dialogo? Ma il problema forse è dell'armonia, perché dicendo i modelli del dialogo tu dici ancora la stessa. Ieri sera Hegel diceva la metodologia della convergenza, poi abbiamo sentito altre denominazioni, in fondo si dice la stessa cosa, ma in realtà tocchiamo tutti lo stesso problema. Non si può più pretendere che non esistano uomini, ognuno dei quali non sia capace di farsi un universo, che soltanto alcuni grandi, maggiori filosofi siano capaci di pensare per altri, di costruire il sistema. Oggi abbiamo questo fatto non soltanto della frantumazione delle scienze, ma l'avanzarsi di persone le quali nella loro globalità o nella loro frantumazione esigono di essere presi sul serio come universi. Come fare, dentro di questo discorso, a trovare i luoghi della conciliazione, della circolazione, dei modelli del dialogo e dell'armonizzazione? Ritengo che questo sia un nodo, diremmo, veramente centrale anche di questo dibattito che abbiamo fatto. Bene, concludiamo questa mattina. Buon pranzo. Grazie. Grazie.